La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, il settimanale di cinema di Radio 24, come sempre in onda nel weekend per raccontarvi tutte le novità al cinema in un video e tutto quello che si muove soprattutto durante questa calda estate nell'ambito dei festival. Beh, di novità non ce ne sono moltissime che arrivino in sala, anzi penso che sia questa settimana il record storico al ribasso di uscite del weekend, solo un film, meno di così non si può fare oggettivamente. Addirittura la prossima settimana con Di mezzo Ferragosto ne usciranno due, quindi si andrà meglio. Beh, un film però molto interessante, molto particolare, ne parleremo fra poco, si intitola Flash of Genius e racconta una di quelle storie vere americane, la storia di, come sempre, la storia eterna di Davide contro Golia, dove Davide è la grande industria americana e Golia è l'uomo di talento che si vede un po' oppresso e schiacciato da questa grande industria. Fra poco ne parliamo, veramente pochi secondi, prima giusto un'occhiata al palinsesto, alla scaletta di questa puntata, perché cominceremo una sorta di rincorsa, di hit parade dei 100 film più visti durante la stagione cinematografica che si è appena conclusa, la 2008-2009. La top 100 comincia oggi proprio con i primi, anzi gli ultimi 25 posti, dal 100° al 76°, e ogni settimana avremo 25 film da riscoprire, da riassaporare, anche con dei brevi assaggi di pezzi di dialoghi oppure di dichiarazioni dei registi o degli attori. E poi cominceremo a girare per i set durante questo agosto della Rosa Purpurea, i set dei film che poi faranno la stagione prossima, e cominceremo con un film molto atteso come quello di Silvio Muccino, Un altro mondo. Sarà nostro ospite proprio Silvio Muccino con un'intervista. E ancora Festival di Locarno in pieno svolgimento, un film ritrovato di Walter Chiari, davvero una scoperta straordinaria. Ne parleremo con il figlio del produttore di questo film degli anni 50, e poi nella parte finale del programma, come sempre, tutte le novità in DVD e la nostra rubrica Trailer USA, che ci dà un assaggio delle novità cinematografiche americane. E allora, cominciamo subito, entrando nel vivo della trasmissione, con l'unica novità cinematografica del weekend. Parliamo di Flash of Genius. Nel 1967 tutte le grandi industrie automobilistiche del mondo cercavano il modo di inventare il tergicristalli a intermittenza. Ci riuscì. Ehi papà, mamma vuole sapere dov'è il frullatore. È qui sotto, lo sta smontando. Un professore universitario di Detroit. Quel professore universitario si chiamava Robert Kearns, era un ingegnere e un inventore e aveva avuto il flash of genius, il colpo di genio che caratterizza un'invenzione, una domenica tornando dalla chiesa in una giornata di pioggia. Perché i tergicristalli andavano di continuo disturbando la sua visuale? Perché non poteva essere come per le palpebre che puliscono gli occhi ogni 4-5 secondi? Tornato a casa, il professor Kearns cominciò a smanettare in cantina fra motorini rubati agli elettrodomestici e tergicristalli di fortuna, finché un giorno... 1, 2, 3, vai! 2, 3... Addivo! Kearns era un uomo giusto, puro, poco incline al compromesso con il mondo e voleva tenere per sé e per la sua famiglia il frutto di quella scoperta. Pensava di aprire una fabbrica e costruire tergicristalli per le grandi case automobilistiche. La Ford parve accettare di buon grado. Bob, il vincitore della gara per il tergicristallo, ci dovrà fornire una unità funzionante. Capisco che io avrò bisogno delle vostre auto per il mio tergicristallo. Ma ottenuto il prototipo, il gigante di Detroit si tirò indietro, salvo presentare, pochi mesi dopo, la nuova berlina, la prima con il tergicristalli a intermittenza. Vi presentiamo la più bella Ford Mustang e il nuovissimo tergicristallo elettronico a intermittenza. Facciamo un bel applauso! Quello è il mio progetto. Signore, per favore, da questa parte. Quelli ci hanno derubati. Hanno detto che sta andando bene. La cosa fece letteralmente impazzire Bob Kearns, che dopo un esaurimento nervoso intraprese un improbo percorso legale contro la Ford, un percorso dal quale si sfilarono prima i soci vigliacchi, poi la moglie Lorin, che ne aveva piene le tasche di quell'uomo ossessionato dall'ingiustizia subita. Kearns contro la Ford Motor Company, inizio 14 agosto. So che si rappresenterà da solo. E mio figlio Dennis sarà qui per aiutarmi. Bob Kearns era un uomo solo, ma non sconfitto. Rialzò la schiena, trasformò la sua casa nell'improvvisato quartier generale della battaglia che avrebbe portato la Ford in tribunale. Vi risparmiamo la sentenza per non rovinarvi il gusto della visione del film, anche se quella di Robert Kurz è una storia vera e basta documentarsi. Soffermiamoci invece sul valore cinematografico di quest'opera, che si inserisce in quel filone sempre vivo del cinema americano di impegno civile, che ci racconta la tracotanza delle grandi compagnie nei confronti dell'individuo. Ottimo esordio alla regia per Mark Abram, produttore di film come Hurricane e I figli degli uomini, da sempre attratto però dalla macchina da presa. Bella la fotografia di una Detroit livida e ovviamente piovosa, firmata dal nostro Dante Spinotti. Greg Kinnear incarna a pennello l'uomo medio che sbatte il muso contro l'altra faccia del sogno americano, quella più amara. Un'interpretazione che lo mette in lizza per una nomination agli Oscar. Un film pieno di talento, insomma, avrebbe meritato di più della semiclandestinità di un deserto weekend d'agosto. E abbiamo parlato di Flash of Genius, l'unico nuovo film che arriva nelle sale cinematografiche italiane, protagonista Greg Kinnear. Noi andiamo a dare un'occhiata alla anemica classifica degli incassi, anemica non per tutti e non nello stesso modo, ma insomma gli incassi sono precipitati nello scorso weekend, complice anche, come dicevamo, un numero di novità davvero molto molto ridotto. La gente in realtà al cinema ci va più o meno come si va al cinema nel mese di agosto, cioè poco, ed è un male in assoluto, perché ci sono film che possono essere un buon diversivo e una buona possibilità per passare un paio d'ore all'aria fresca e magari con una bella storia. Beh, insomma, chi fa ancora una notevole incetta di soldi e di incassi nel botteghino è Harry Potter, che continua a guidare la graduatoria con 780.000 euro incassati lo scorso weekend e un totale che ormai supera i 16 milioni di incasso totale, a notevole distanza però al secondo posto un film che sta avendo un ottimo passaparola, per cui l'estate invece potrebbe essere alla fine stata la chiave di volta positiva. Un film come Una notte da leoni, di gran lunga il film più comico uscito quest'anno, grande sceneggiatura nel film di Todd Phillips. Ebbene, Una notte da leoni ha incassato altri 135.000 euro ed è arrivato già a 3.2 milioni, che sono un incasso che forse, magari schiacciato da altre produzioni, non avrebbe potuto fare, anche se ne meriterebbe di più, detto sinceramente, per la qualità cinematografica e di sceneggiatura proprio del film. Terzo posto per un'altra commedia, La rivolta delle ex. Quarto per un altro film, un colossal come Transformer, La vendetta del caduto, il sequel appunto del primo Transformers di Michael Bay, 7.8 milioni di incasso globale. Al quinto posto troviamo l'animazione di Coraline e la Porta Magica, che è ormai in giro da parecchie settimane. Nessun film di quelli che sono usciti lo scorso weekend è entrato nei primi 10, mentre in America guida Funny People di Judd Apatow, 23 milioni di incasso di dollari nel primo weekend, che ha scalzato Harry Potter, che invece è secondo. Anzi, Harry Potter in realtà era già stato scalzato da GeForce la scorsa settimana, ma GeForce questa settimana è scivolato al terzo posto. Questo per quanto riguarda il box office. Noi, prima di dare la linea alla regia, dobbiamo aggiornarvi sulla questione tagli al FUS, reintegri del FUS, protesta degli autori e degli attori che si è consumata la settimana scorsa prima della presentazione del Festival di Venezia a Roma. Proprio nelle ore successive c'è stata una decisione del governo, annunciata dal ministro dei beni culturali Sandro Bondi, di un reintegro di 60 milioni rispetto al taglio iniziale di 200 milioni previsti. Questi 200 milioni di taglio non saranno 200 ma saranno 140. Il governo è riuscito a reintegrare 60 milioni, è già qualcosa in tempi di crisi. Non sono soddisfatti ovviamente gli esponenti del mondo del cinema e della cultura, che dicono con 200 tagliati ovviamente 60 reintegrati sono solo poca cosa, ma insomma forse era quello che si poteva fare in questo momento. La rosa purpurea. La rosa purpurea riprende con una consuetudine estiva di questo programma, ovvero quella della super classifica dei 100 film più visti durante la stagione. Nel corso delle puntate agostane, 25 alla volta, vi racconteremo i film che hanno fatto appunto la top 100 della graduatoria degli incassi al botteghino. Oggi cominciamo dal basso, come si conviene a ogni hit parade. Cominciamo dal 100° posto e ci avviciniamo fino al 76°. Allora, al 100° posto, ricordo, classifica che va dall'inizio inizio di agosto dello scorso anno, alla fine di luglio di quest'anno. Dicevo, al 100° posto c'è The Mist, al 99° Max Payne, al 98° Pride and Glory. Al 97° posto, un film che è ancora nelle sale cinematografiche, l'abbiamo sentito prima nella classifica, Una notte da leoni, perché appunto è un film uscito prima della fine della scorsa stagione e ancora in essere, ancora in attività durante questa stagione. The Orphanage è al 96° posto, Never Back Down è al 95°. Al 94° posto troviamo L'ospite in attesa, uno dei film più belli in assoluto usciti durante questa stagione cinematografica, con la storia di un disilluso professore universitario che arriva a New York e trova nella sua casa un immigrato clandestino. Tra i due, dopo un'iniziale diffidenza, scoppia l'amicizia ed è un film che fa riflettere molto sullo stato dell'essere, dell'accoglienza dell'America di oggi. L'ospite in attesa, ascoltiamo un passaggio del film e poi le parole dell'attore che recita al fianco di Richard Jenkins, ovvero Az Sleiman. So che sei un uomo molto intelligente, ma col tamburo devi ricordarti di non pensare. Pensare incasina tutto, chiaro? Chiaro. Un'altra cosa, Walter. Nella musica classica tu pensi in quattro tempi. 1, 2, 3, 4. Da, da, da, da. Questo è un tamburo africano, quindi dovrai suonare in tre tempi. Tac, tac, tac. Dimentica la musica classica. Lasciala perdere. Tac, tac, tac. 1, 2, 3. Ok, sta a sentire. Non si tratta di risolvere nulla, è solo un tentativo di capirsi meglio, è strappare via il velo della religione, della politica, della cultura e capire cosa resta, poi entrare in connessione a quel livello. Questo è bello, perché io penso che solo da quel livello si possa cogliere la verità dei rapporti, qualunque sia. È bello, così torniamo alle origini. Proseguiamo con il 93° posto, c'è Push. Al 92° Piacere Dave, uno dei film di quest'anno usciti con Eddie Murphy protagonista. Al 91° posto invece troviamo un film italiano, Due partite, che è stato un film tratto da una fortunatissima pièce teatrale di un paio di anni prima, un film che racconta due generazioni di donne che appunto sono prima figlie e poi diventano madri, e quindi c'è tutto un discorso sul confronto generazionale. Il film è diretto da Enzo Monteleone, noi ascoltiamo un breve passaggio, una breve clip tratta dai dialoghi del film e poi una dichiarazione del regista. Quante volte ci hai provato? 4. E se non resto incinta non è che posso adottarlo? No, perché vado una single, non li danno. Io ho altre 6 eiaculazioni del mio Bruno alto 1,85. Sei scema? Congelate. Ma facciamo tutti fratelli? Beh, almeno non sono figli unici. Ci sono 8 bravissime attrici, credo il meglio, diciamo, della... delle due generazioni, anche se si è avvicinate, di attrici italiane. Il testo l'ho maneggiato e rimaneggiato per il cinema, però insomma aveva già in sé una sua forza, proprio una forza evocativa, perché poi metteva a confronto gli anni 60, che erano gli anni del boom, gli anni delle canzonette e delle prime, come dire, gioie consumistiche, con 30 anni dopo un'Italia che si è, come dire, arricchita ma intristita. Si prosegue con un film per teenager al 90° posto, 17 Again, film che porta appunto sullo schermo uno dei beniamini, soprattutto delle ragazzine, Zac Efron, che sta faticosamente cercando anche strade diverse da quelle che lo hanno lanciato, da quell'High School Musical che ormai parecchi anni fa, insomma un discreto numero di anni fa cinematograficamente lo ha lanciato. 89° posto per La classe di Laurent Canté, Palma d'Oro al Festival di Cannes nel 2008, un incasso globale di 1.700.000 euro. Ascoltiamo un passaggio del film. Bisognava che io, Cuba, Fossi, esatto. Ma lei crede veramente che se io vado da mia madre e dico bisognò che io sia Fossi, se dico così, che lei davvero capisce? Ma sì, è roba da medioevo questa. Ma no, che non è roba da medioevo. E comunque, posso rispondere alla domanda che mi è stata fatta? Io l'autorizzo. La prima cosa che noto è che ancora prima di avere la padronanza di una cosa, in questo caso l'imperfetto congiuntivo, siete già tutti lì a dire che non serve a niente. Cominciate col saperlo. Cominciate col saperlo e poi potrete mettere in discussione il suo utilizzo. Chiaro? All'88° posto troviamo Sbirri, operazione abbastanza originale, magari non particolarmente riuscita, ma che mischia finzione e realtà, raccontando il mondo delle squadre, delle volanti della polizia, con Raoul Bova protagonista. L'87esimo posto, uno dei film più raffinati dell'anno, una grande prova d'attori, come Il Dubbio che racconta proprio una specie di duello non rusticano ma molto velenoso fra una Meryl Streep nei panni della sovrintendente di una scuola religiosa e di un professore invece interpretato da Philip Seymour Hoffman, tacciato ingiustamente di pedofilia. Insomma, un tema molto caldo, trattato con una scrittura. Anche in questo caso alle spalle c'era una pièce teatrale che in Italia è stata interpretata da Stefano Accorsi nei panni appunto del sacerdote. Noi ascoltiamo un interessante passaggio, emblematico passaggio audio del film, e poi una dichiarazione dell'attore Philip Seymour Hoffman. Le posso chiedere che cosa sta scrivendo con quella penna a biro? Niente, solo un'idea per un sermone. E qual è l'idea? L'intolleranza. Somebody is trying to spark new life into something. Il mio personaggio è un uomo aperto alla vita, aggiornato, è un intellettuale, ama leggere, scrivere, si guarda intorno, ma purtroppo per lui vive e lavora in un contesto, quello della Chiesa, che non lo aiuta e che soprattutto a quel tempo non guarda i cambiamenti della società. Io comunque cerco di andare per la mia strada. Ottantaseiesimo posto per Il Mai Nato, e siamo in atmosfera horror. All'85esimo posto un altro film italiano che si è ben comportato al botteghino nella prima parte della stagione, si intitola Si può fare, ed è un film che con grande delicatezza ci racconta una storia ambientata nella Milano degli anni Ottanta, con una assistente sociale che cerca di far rivivere, in un certo senso riappassionare alla vita, una serie di malati mentali che sono rimasti orfani da un certo punto di vista delle case di cura dopo la legge Basaglia, dopo la chiusura dei manicomi, e una inadeguatezza della società nel trattare questi casi, con questo assistente interpretato da un grande Claudio Bisio in chiave comico-drammatica, diciamo così, da un po' commedia, un po' dramma, che cerca di appunto dargli nuovi stimoli per continuare a vivere. Ma perché mi discoraggia? Io mi faccio un mazzo così per motivarli. Guardi che lei non li motiva. Lei li illude. Questi sono malati di mente. Non sanno neanche incollare i francobolli. Sia quel che sia, delle capacità ce le hanno. Perché non approfittarne e cavarne fuori qualcosa? E ancora in classifica Coraline e la Porta Magica, che occupa in questa graduatoria l'84esimo posto, ma vale lo stesso discorso fatto per Una Notte da Leoni, un film che ancora nelle sale cinematografiche italiane, i film che escono a cavallo tra la fine di una stagione e l'inizio dell'altra, ovviamente hanno un incasso metà di qua e metà di là, quindi prendetela un po' con le molle in questo caso, ma Coraline è ancora visibile sui grandi schermi. 83esimo posto per Vincere, il film di Marco Bellocchio con Giovanna Mezzogiorno, e allo 82esimo un altro film dal quale forse ci si aspettava un po' di più in termini di incasso. Stiamo parlando de I Mostri Oggi, con Diego Pantantuono e Giorgio Panariello, una sorta di riedizione nostrana del grande film di Dino Risi. 1.966.000 euro l'incasso, come dicevamo forse ci si poteva aspettare qualcosa di più. Ascoltiamo una clip. Rapporti con sua moglie? Ci stimiamo. Non le tira più? No, cioè sì, però mia moglie non me lo fa notare perché lei ama altre cose di me. Sicuro? Il primo film a superare quota 2 milioni di incasso è Iago, con Nicolas Vaporidis protagonisti, una sorta di riambientazione del personaggio shakespeariano e quindi del tema della gelosia ai giorni nostri. 80esimo posto per Dragon Ball Evolution. Al 79esimo una delle due parti in cui è stato diviso il lavoro di Steven Soderbergh sulla figura mitica di Ernesto Che Guevara. Questo è Che l'Argentino, come dicevamo è una delle due parti. Sentiamo un passaggio del film e le parole di Steven Soderbergh. Scusa Fidel, non capisco come fai a incontrarti con quei buffoni. E ancora meno come puoi fare un accordo con loro. Hanno molto seguito, Ernesto. Gente che non mi posso permettere il lusso di rifiutare. Vediamo come va. I'm interested in him. The fact that he was part of the Cuban Revolution. Mi interessa lui, che poi abbia avuto un ruolo importante nella rivoluzione cubana, è secondario. Cuba viene solo dopo, il che fornisce invece un materiale cinematografico impressionante. Ha avuto una vita incredibile, la più affascinante del secolo scorso. Inizialmente volevamo focalizzarci solo sulla parte boliviana della sua lotta, perché è meno nota, ma poi abbiamo capito che senza spiegare la rivoluzione cubana, il pubblico non avrebbe capito la parte boliviana della storia. To understand why he thought they could win in Bolivia, you needed to see what happened in Cuba. E ci avviciniamo alla parte conclusiva della nostra primo quarto della top 100 degli incassi nei cinema italiani questa stagione. 78esimo posto per The Strangers, 77esimo per La Duchessa, film molto raffinato, 76esimo posto per una delle grandi sorprese di questa stagione, Pranzo di Ferragosto, uscito in piena estate, presentato a Venezia la settimana della critica, un film che ha veramente aperto uno squarcio su una terza età brillante, giocosa e assai vogliosa di vivere. Lo ha diretto Gianni Di Gregorio, che ascoltiamo. Sono stato 10 anni abbandonando a tratti la mia famiglia, proprio la famiglia mia, e quindi sono stato con sta mamma, ho visto un universo, l'universo appunto degli anziani con tutte le sue amiche, lì sono con tutta l'impegno e con tutta la fatica, però mi ha colpito proprio il loro mondo, mi ha colpito un mondo ricchissimo di vita, di passioni, di forza vitale. E prima di dare la linea alla regia, vogliamo rendere omaggio a un regista scomparso prematuramente proprio nelle ore in cui chiudevamo questa puntata della Rosa Purpurea. Si tratta di John Hughes, aveva 59 anni ed era stato regista, produttore e soprattutto sceneggiatore di alcune delle commedie di maggiore successo fra gli anni 80 e 90. Alcuni titoli: Mamma ho perso l'aereo, Una sirena a Manhattan come sceneggiatore, Io e zio Buck, Un biglietto in due come regista. La Rosa Purpurea si intitolerà Un altro mondo e sarà l'opera seconda di Silvio Muccino da regista. È uno dei film più attesi dell'inizio della prima parte della prossima stagione cinematografica e abbiamo potuto incontrare Silvio Muccino, ma anche i produttori del film, a Roma durante una pausa della lavorazione sul set. Intanto ci sono delle notizie che riguardano questo film che sono maturate proprio nelle ultime ore. Pare che Mariangela Melato sarà la mamma di Silvio Muccino nel film Un altro mondo. Poi pare che Muccino avrebbe messo gli occhi addosso a Isabella Aragonese per il ruolo dell'interprete femminile e a Flavio Parenti, che aveva già lavorato nel suo primo film e che sarà anche presente tra l'altro alla Mostra del Cinema di Venezia con la partecipazione ai film di Guadagnino, Maselli e Terracciano. Insomma, un attore che sta davvero lavorando molto, Flavio Parenti. Ma di cosa tratta Un altro mondo? È la storia di un ragazzo che scopre di avere un fratello di colore, lo scopre in Africa, e quindi il film è ambientato in parte nel continente africano. Insomma, una scelta anche produttiva non facile, quella di Silvio Muccino, ma sicuramente molto affascinante. E allora noi cominciamo ad ascoltare Silvio Muccino raccontarci un po' questa sua seconda volta. Si dice che spesso sia più difficile della prima, è proprio così? Difficile, confermo. Dico anche però che la mia opera prima era un'opera così tanto attesa che in qualche modo mi sento anche, come dire, più rassicurato su questa nuova, su questo nuovo film, se non altro perché in qualche modo il grande salto è stato già fatto, il salto che mi ha il pubblico mi ha già seguito in qualche modo anche ampiamente in questo passaggio da attore a regista e attore, perciò io mi sento nervoso ovviamente, però anche molto sereno e tranquillo perché credo molto in questa storia. Il Parlami d'amore era un libro anche tuo, cioè te l'hai rivissuto fino in fondo. Qua invece Carla è sempre l'amica, la sodale di sempre, però insomma il libro non è tuo. Che difficoltà c'è stata in più? Beh, devo dire che lei ha sofferto un po' di più questa volta, perché io ero proprio un regista all'attacco e lei è un'autrice in difesa. Però devo dire che Carla è la stessa eccezionale, perché ha avuto un modo di è stata eccezionale nel non essere veramente autrice al momento in cui è diventata sceneggiatrice, quindi in realtà come al solito la nostra collaborazione funziona perché l'obiettivo comune diventa il film a quel punto, e abbiamo scritto questo film in qualche modo sentendosi soprattutto lei molto libera anche rispetto al libro di partenza. E allora facciamoci spiegare un po' da vicino la trama e i personaggi di questo film. Silvio Muccino. Che è un... è un ragazzo di questa Roma, Roma bene, un ragazzo appunto in qualche modo, lui sì, malato, in qualche modo ammalato da questa sorta di depressione trasversale che tocca un po' lui, un po' i suoi amici, che vede il futuro come una porta chiusa e quindi non ha nessun grande impulso a vivere, non ha sogni, non ha desideri, si lascia vivere, non vuole farsi troppe domande. Livia è una ragazza anoressico-bulimica con dei problemi che anche lei però cerca di non guardare, insegna danza per delle bambine, per un primo corso di danza per bambine, e vive con questo ragazzo, ma senza mai, anche loro, senza mai veramente sbilanciarsi, non ti amo, non una promessa, non una domanda di troppo, l'importante è scivolare sulla vita. Tommaso è il suo migliore amico ed è una grande promessa del pianoforte mai rispettata, che a un certo punto ha scelto di non andare avanti. E in questo mondo descritto da questi personaggi, a un certo punto arriva un bambino che mette tutto in discussione. Per quanto riguarda insomma la tua carriera nel cinema, hai bruciato le tappe, hai sceneggiato da giovanissimo, già due film da regista, compreso questo. La prossima sfida qual è? Dirigere qualcun altro senza essere sul set? Sicuramente sì, sicuramente è una cosa a cui penso, ma ci sono anche altri progetti di cui parlerò più avanti, che insomma tra non molto annuncerò, e che sono invece un'altra cosa. Questo quindi è un altro mondo, come dicevamo, ambientato in gran parte in Africa. Che cosa ha rappresentato l'approdo col continente africano per il giovane regista italiano? Sentiamo. L'Africa non è soltanto uno scenario, l'Africa è veramente una specie di grande mamma all'interno di questo film, dove le madri mancano. È un luogo, in qualche modo metaforicamente racconta davvero quella discesa, quel viaggio, che poi è anche fatto di momenti comici e simpatici e divertenti. Voglio dire, questo bambino è impossibile non ridere e non divertirsi, perché anche se adesso sembra molto timido, in realtà non è timido per niente, ma è un percorso che è fatto anche di momenti abbastanza difficili e alcuni magari anche dolorosi, però in qualche modo Andrea lascia la comodità di casa sua e suo malgrado è costretto a intraprendere un viaggio nel profondo di quest'Africa, di questo Kenya, che lo porterà appunto in contatto poi con se stesso, in contatto poi con questo bambino. Assomiglio a mio nonno? Allora, madame, senza più pentimenti ci tuffiamo decisamente nell'Havana? Come dice? Ah, sì, signora, ormai è decisa, Havana. Merci, madame. Si può sapere chi è quella specie di pappagallo che vuole tuffarsi nell'Havana? E quello che abbiamo sentito è un film che non c'era, spieghiamoci, un film che non c'era e che adesso c'è, o meglio c'era ma non era stato molto visto e non c'era più in circolazione. Non è un gioco di parole, è quello che è accaduto realmente al film Quel fantasma di mio marito, di cui appunto abbiamo sentito qualche passaggio, di un brillantissimo Walter Chiari, che viene presentato in questi giorni al Festival di Locarno. Festival di Locarno, come sempre, grandi concorsi, retrospettive, piazza grande, ma la Fondazione Cineteca Italiana di Milano ha portato un paio di progetti molto interessanti di cui vogliamo parlarvi. Il primo è proprio questo, Quel fantasma di mio marito, un film scritto nel 50 da Antonio Pietrangeli, diretto da Camillo Mastrocinque, due grandi nomi del cinema italiano dell'epoca, protagonista un Walter Chiari che forse era il suo primo ruolo veramente di mattatore dentro un film, che veste i panni di un giovane giornalista un po' sognatore, un po' anche diciamo così pigro. Ed è un buco nero della storia del cinema italiano, perché il film venne distribuito in pochissime copie e soprattutto pochissimi giorni, fu poi ritirato, non fu poi mai ristampato, non è mai uscito in un video, insomma un film che era diventato invisibile. Addirittura molte storie del cinema non ne riportano neanche l'esistenza. Adesso l'opera di restauro anche e questo progetto della Cineteca Italiana lo porta a Locarno e poi ci sarà anche una uscita in DVD. E allora di Quel fantasma di mio marito noi parliamo con Pietro Briguglio, figlio di Ferdinando Briguglio, che fu il produttore proprio di quel film. Allora, buonasera a Pietro Briguglio, cosa ha rappresentato questo film per la vostra famiglia? Posso dire di essere stato il custode di questo negativo, di questo materiale, che è stato custodito da mio padre prima e da me dopo la chiusura della casa cinematografica che l'aveva prodotto. Ma perché ebbe una circolazione così ridotta questo film? Non fu neanche mai stampato su una pellicola di acetato. Quali furono i motivi? Fu stampato, iniziò il circuito, ma subito fu ritirato, perché andò nelle sale all'inizio del 1950 e durante l'inverno del 1950 mio padre chiuse la casa cinematografica Briguglio Film che aveva fondato, che aveva prodotto Anni difficili, che aveva distribuito un sacco di una quantità notevole di commedie americane, la chiuse. Soffermiamoci su questo film. Che sì. Film è stato e che film è quel Fantasma di mio marito e che cosa raccontava? È un film sofisticato, è comunque una commedia all'americana. Walter Chiari dà il meglio di se stesso, è bravissimo. Il film parla di questo giornalista svogliato che si vuole far licenziare, che non va al lavoro con una passione, un coinvolgimento che poi a quei tempi peraltro era anche sentito, perché era il desiderio era in tutti di avere un posto di lavoro e tenerselo caro. Lui vedeva così, sognava una vita forse più bucolica sicuramente, infatti poi nel suo finale il film lo accontenta. E lui, la moglie invece, che era determinata, fonda una casa di mode e era determinata nel vederlo affermarsi e nel vederlo lavorare, lo raccomanda lì dove il direttore del suo giornale, lui era un giornalista, Gianni Alberti, voleva licenziarlo, lo raccomanda con la sua seduzione magari, e lo fa inviare in Palestina. E questa è una parte del film estremamente moderna, questa Palestina che ci viene presentata come il direttore dell'albergo ebreo che abbraccia il portabagagli arabo per dimostrare agli ospiti che c'è la pace e che si vogliono bene gli ebrei con gli arabi, ma poi lo prende a calci nel sedere. Senta, un Walter Chiari sofisticato, sebbene praticamente agli esordi, nel senso che questo era il primo film da protagonista vero di Walter Chiari. Lui aveva fatto anche altri due film, però erano due film in cui lui era non coprotagonista ed erano film più commerciali e di altro genere. Questo è il primo film in cui Walter Chiari affronta il lavoro come un personaggio e un attore di primo piano all'americana. Il film è un film di tipo americano, Walter Chiari ha una parte e il suo personaggio nel film è Walter Chiari, attore fuori dalla pellicola, con questo film, e in questo film comunque è un personaggio hollywoodiano. Finalmente il film è stato restaurato dal laboratorio Immagine Ritrovata di Bologna, come sempre con straordinaria qualità. Lo vediamo a Locarno, ma questa è la sorpresa anche per tutti, potremo vederlo in un video presto, no? Sicuramente, abbiamo già sottoscritto un accordo con Medusa Video che farà il DVD di questo, come anche di Anni difficili, insieme in un cofanetto numerato che porgerà questi due film della Briguglio Film. E come dicevamo, sono due i progetti della Cineteca Italiana a Locarno. Dopo quel Fantasma di mio marito c'è anche Lo strano viaggio di Pimpo Po, titolo abbastanza singolare che ci dà già una sonorità infantile, se vogliamo, e perché infatti è un film per ragazzi, per bambini, ma è un film del 1922 diretto da Dante Cappelli, un film muto, straordinario esemplare di quel filone di film per ragazzi che negli primi anni 20 ottennero grande successo in Italia. Anche questo è un film che praticamente non si vedeva più. Ne ricostruiamo la storia con Matteo Pavesi della Fondazione Cineteca Italiana. Questo è un film che è negli archivi della Cineteca di almeno da 60 anni ed è un film che praticamente non viene ricordato in nessuna storia del cinema. Questo strano viaggio di Pimpo Po fa parte di di quelle cinematografie, come dire, considerate minori, perché è un film nato e pensato per un pubblico di ragazzi, di bimbi. È un film di avventura per un divertimento che oggi coinvolge grandi e piccini, ma che allora probabilmente nasceva con un'intenzione molto precisa, che era quella appunto di rivolgersi a un pubblico di ragazzi. Noi siamo rimasti innanzitutto incuriositi dal titolo, no? E poi andando a scoprirlo, guardandolo sulle macchine di Moviola, ci siamo davvero innamorati di questo piccolo film. Si ricostruisce una sorta di Far West in Piemonte, ma non solo, perché il Pimpo Po, attraverso le letture di Jules Verne, fa una sorta di viaggio al centro della terra, vola con una sorta di mongolfiera, vive tutte le possibili avventure, però probabilmente allontanandosi da casa non più di 15-20 metri. La Rosa Purpurea. Di nuovo insieme alla Rosa Purpurea, alla quarta e conclusiva parte del nostro programma, che come sempre si apre con le anticipazioni dagli Stati Uniti. Trailer USA, la nostra vetrina sulle anteprime americane e sui trailer che vengono resi disponibili proprio in America. Questa settimana vi parliamo di un film che sicuramente piacerà alle platee italiane quando lo vedremo, probabilmente verso Natale, ed è un film targato Disney. Si intitola Old Dogs, che al di là della, diciamo, della traduzione letterale, che sarebbe vecchi cani, ma insomma in realtà vuol dire, è una frase idiomatica, insomma, che vuol dire più o meno vecchie canaglie. Tra poco capirete anche perché. Prima però salutiamo la nostra Micaela Belisario. Ciao Micaela. Ciao Franco. E allora, dicevamo, Old Dogs, cast notevole, due protagonisti di questa favola che sono niente meno che John Travolta e Robin Williams, un duo d'eccezione e tra l'altro un duo che negli ultimi giorni ha fatto parlare di sé per motivi certo non così non particolarmente brillanti. John Travolta pare volesse lasciare Scientology dopo la morte mesi fa del figlio Jet di 16 anni, è andato un po' in crisi il suo rapporto con questa setta religiosa che John Travolta ha anche finanziato in maniera piuttosto cospicua, mentre Williams, peraltro proprio durante le riprese di Old Dogs, si è ammalato di cuore ed è stato operato, tanto da essere stato ricoverato d'urgenza per un intervento in Florida. Insomma, alla fine il film è stato concluso, speriamo non sia l'ultimo dei due. Nel cast c'è anche Matt Dillon, tra l'altro nei panni di un istruttore di ginnastica, e praticamente tutta la famiglia Travolta, la figlia Ella e la moglie Kelly Preston. Micaela. Sì, infatti la moglie di John Travolta, Kelly Preston, è Vicky, che è la moglie separata di Dan, interpretato da Robin Williams, e vi racconto un po' la trama. Insomma, 7 anni dopo essere scappata di casa, si presenta da Dan e gli confessa che il padre di due scalmanati gemelli di 7 anni, un bambino e una bambina, la bambina appunto è Ella, la figlia di Travolta. Per Dan è una notizia sconvolgente, perché lui viveva appunto da 7 anni da perfetto scapolo insieme a Charlie, interpretato da John Travolta. Sono soci in affari, si divertono e soprattutto non contemplano figli nella loro vita. Nel passo del trailer che sentiremo tra pochissimo, Dan nel parco tira un pallone indietro a un gruppo di ragazzini che insomma stanno giocando a calcio e ne colpisce addirittura uno in faccia, prendendosi per tutta risposta gli insulti. Ecco, la ex moglie di Dan, appunto Vicky, chiede all'ex marito di prendersi cura dei gemelli e del loro cane, perché lei dovrà star via per un po'. È inutile dire che la vita dei due single cambia radicalmente, ma forse anche in meglio, e tutto il film gira intorno a questa novità tra mille avventure. Ecco il momento in cui Vicky dà la notizia a Dan. Daddy! I have kids. Twins. I'm gonna be an old dad, you're gonna be Uncle Charlie. We can do this. We? Benissimo, il film esce il 25 novembre negli Stati Uniti, da noi come anticipato a Natale. Per Travolta è il secondo film Disney dopo aver dato la voce a Bolt nel 2008, mentre per Robin Williams è il quinto, e anche in questo caso c'è stato di mezzo un film d'animazione molto fortunato come Aladdin. Ciao Micaela, alla prossima settimana. Sì, ciao Franco, alla prossima settimana, e come sempre un saluto agli ascoltatori. Ed eccoci arrivati all'ultima parte della Rosa Purpurea, quella tradizionalmente dedicata ai DVD, ai Blu-ray, a tutte le novità in un video, per intenderci. Cominciamo con l'ascoltare una delle tracce che vi avevamo proposto 7 giorni fa nell'ultimo DVD Game di questa stagione. Sentiamo. Quell'uomo è stato qui dentro 50 anni, Haywood. 50 anni. Questo è tutto il suo mondo. Qui dentro lui è un uomo importante. È uno dei più istruiti. Fuori non è niente. È soltanto un vecchio stanco, inutile e pieno di acciacchi. Forse non gli darebbero neanche la tessera della biblioteca. Hai afferrato il concetto? Si trattava di Le ali della libertà, un classico della storia del cinema. L'avevamo detto, un film che aveva le radici un po' nella storia della cinematografia. Molti di voi sono stati bravi, hanno indovinato. I più veloci, che riceveranno a casa il Blu-ray delle ali della libertà, sono stati Giuseppe Budroni di Milano e Lorenzo Moneta di Roma. A loro arriverà appunto il Blu-ray di Le ali della libertà. Noi siamo in collegamento con Claudio Pofi, che ci racconta così quali sono le caratteristiche di questa produzione. Ciao Claudio. Ciao Franco. Sì, l'opera di Frank Darabont, straordinaria, arriva in alta definizione e ci riporta al meglio della qualità possibile, almeno per quanto riguarda la parte video, la storia di questo onesto bancario Andy Dufresne, condannato per un duplice omicidio che non ha commesso, finirà nella prigione americana di Shawshank, dalla quale riuscirà a fuggire organizzando un'incredibile fuga lunga 20 anni. Scoprirà appunto un punto debole all'interno della sua cella. Bene, l'opera per quanto riguarda la parte video è notevolissima, abbiamo una grandissima tridimensionalità. Per quanto riguarda l'audio, il Blu-ray segnala 2 tracce in DTS ad alta definizione. In realtà è presente una sola traccia in DTS ad alta definizione, quella in italiano, che presenta una notevole sonicità, una notevole timbrica e dinamica, anche se ci sono alcuni elementi sonori intubati e digitali. La traccia in DTS ad alta risoluzione, che dovrebbe essere presente in lingua originale inglese, non c'è, ma è presente comunque un'ottima codifica in Dolby Digital. La grande novità sta nel fatto che per la prima volta prodotto in Italia è questo Blu-ray che contiene il BD Live, ovvero dà la possibilità agli utenti di interagire tra di loro collegandosi attraverso la rete, attraverso internet, a un server, a un computer che contiene ulteriori supplementi rispetto agli extra già presenti all'interno del disco. Nel nostro caso purtroppo non ci sono extra, perché lì si può recuperare direttamente sul sito internet. Claudio, ti faccio una domanda. Praticamente è un DVD che quindi, se visto sul computer, perché bisogna essere connessi a internet evidentemente per poterlo sfruttare, questo BD Live permette di, come, di avere una sorta di disco di contenuti speciali in più. In realtà sì, l'operazione BD Live, sia che il disco venga inserito all'interno di un computer piuttosto che su un lettore, su un player Blu-ray collegato a internet, e quindi con questa funzione inclusa nel lettore, permette non solo di aggiungere, di aumentare il volume degli extra spesso esclusivi che sono recuperabili da remoto collegandosi a questo computer, ma può diventare addirittura a questa potenzialità da social network, perché ad esempio in alcuni altri casi già presenti di altri titoli disponibili sul mercato italiano, inserendo il disco, visionando il film, addirittura si può vedere in tempo reale quali altre persone in giro per il mondo stanno visionando lo stesso film e magari scambiare delle opinioni. E allora Claudio, cambiamo decisamente genere con un film che sicuramente ci porta un sorriso in più sulle labbra. È un film un po' da recuperare, non è un film molto noto, però c'è un'ottima edizione adesso in DVD, si intitola Quella notte inventarono lo spogliarello. Ascoltiamo la clip e poi il commento di Claudio Pofi. Che genere di padre è ella, Louis Minsky? Io le dirò una cosa, signor Sputendavel della Pennsylvania. Io non sono un padre che lascerebbe lavorare una figlia nella compagnia Minsky, e ora può andarsene. No, no, mi serve il suo aiuto, Louis Minsky. Mia figlia non sarà più accolta nella mia casa se passerà la notte danzando sulle scene di suo figlio. Vi è un treno fra 50 minuti. E suo figlio faccia in modo che essa vi salga. Vede questa sedia? Le dica di ballare. Vediamo se ascolta. Allo stesso modo, mio figlio, ascolta me. Torniamo indietro al 1968 per questa opera, Gli esordi del grandissimo regista William Friedkin, sicuramente ricordato per altre opere come Il braccio violento della legge piuttosto che L'esorcista, e ci racconta una storia, una commedia brillante, molto molto simpatica, ambientata nell'East Side newyorkese degli anni 20, e la storia di questa ingenua ragazza che fugge da una comunità religiosa di provincia e vuole diventare un artista, una star, e il problema è che finisce decisamente nel posto sbagliato, in un malfamato teatro di varietà, dove tra un equivoco e l'altro inventerà letteralmente in modo casuale Lo spogliarello, un'opera sicuramente da riscoprire, proposta all'interno della collana Il piacere del cinema da parte del collega Vieri Razzini, una qualità del DVD decisamente buona, c'è qualche piccolo problema nei momenti più bui, nulla di particolarmente grave. Ricordo che il film è ascoltabile oltre che in italiano anche in inglese, sempre in due canali, come extra molto interessante, circa 15 minuti di incontro proprio con Vieri Razzini, che propone un approfondimento sul film. Ci avviciniamo nel tempo, andiamo alla stagione cinematografica appena conclusa, con un western che ha dato nuovo splendore al western crepuscolare, chiamiamolo così, quello nel quale ritmi lenti e sole molto forte caratterizzano appunto la storia, l'andamento e il ritmo delle storie. Si tratta di Appaloosa, ascoltiamo la clip. Come mio padre ero andato a West Point ed ero bravo a fare il soldato. Ma fare il soldato non permetteva all'anima di esplorare molti orizzonti. E così, dopo la guerra tra gli stati e un anno a combattere gli indiani, me ne andai via per vedere quanto avrei potuto allargarli. La prima volta che incontrai Virgil Cole fu quando io e il mio calibro 8 lo aiutammo in uno scontro a fuoco con alcuni montanari ubriachi. Virgil mi chiese se volevo diventare suo socio nell'attività di difensore della pace. Ed è per questo che sono con lui adesso e che porto ancora con me il calibro 8. Distribuisce 01 questo notevole film, che è la seconda opera registica del grandissimo attore americano Ed Harris, che dopo Pollock ci propone questo western crepuscolare molto duro, ambientato nella fine dell'Ottocento nei territori del New Mexico, dove seguiamo le avventure dello sceriffo Virgil Cole e del suo vice. Sono rispettivamente interpretati da Ed Harris e da Viggo Mortensen, sono diciamo due pacificatori di città senza legge che si scontreranno inevitabilmente con un potente ranciero locale, Randall Bragg, un duro e spietato Jeremy Irons, che assieme ai suoi uomini spadroneggia per Appaloosa. Arriverà anche la bella di turno, in questo caso interpretata da Renée Zellweger, una donna sicuramente decisamente con modi anticonformisti. Il film è tutto da riscoprire in DVD, purtroppo al momento non esiste la versione Blu-ray alta definizione, ma comunque c'è questo DVD di ottima qualità. Ricordo che oltre alle classiche italiano e inglese in Dolby Digital Multicanale è presente una traccia in italiano in DTS, tutta da ascoltare, veramente notevole. Ci sono diversi approfondimenti sulla lavorazione dell'opera, sulla produzione, e un focus molto interessante sul direttore della fotografia Dean Semler, che con questo Appaloosa torna a lavorare alla pellicola dopo alcuni film realizzati in digitale in alta definizione. Sono presenti anche scene tagliate col commento di Ed Harris e dello sceneggiatore Robert Knott. Davvero uno straordinario parterre di attori, Claudio, in questo film. Tra l'altro Renée Zellweger che torna abbastanza a suo agio evidentemente alle atmosfere western, non lo erano propriamente, ma di fatto lo erano anche quelle di Vento di passioni una decina abbondante di anni fa. Claudio, appuntamento la prossima settimana qui la Rosa Purpura, perché continueremo a parlare di DVD per tutta l'estate, e quindi ci sarà lo spazio, anzi, con qualche recensione in più del solito. Assolutamente, a presto, un saluto. E con Claudio Pofi si chiude come sempre la nostra trasmissione. La Rosa Purpurea torna sabato prossimo alle 18, domenica in replica alle 9 del mattino, ma l'appuntamento va a lunedì, quando ci risentiremo con il nostro programma quotidiano La vita in un film. Sarà ospite Luca Argentero per parlare di paternità, Luca Argentero che è stato protagonista del film Solo un padre di Luca Lucini. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisi.